America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I am obviously very concerned about what's happening in Europe. I've expressed those concerns repeatedly to all the key leaders involved. I think they now recognize the urgency of doing something serious and bold. The question is whether they can muster the political will to get it done. Il presidente Barack Obama sta seguendo molto da vicino gli sviluppi attorno al vertice dell'Eurogruppo che si terrà ormai domani. Il tempo sta per scadere, i mercati si sono un po' più tranquillizzati ieri in America, ma l'attenzione resta, l'idea che questo incontro forse possa non produrre quello che Washington si attende, preoccupa gli analisti. L'America segue con una certa apprensione quello che sta capitando in Europa per questioni economiche, finanziarie, ma anche per questioni politiche. Il presidente Barack Obama credo che abbia avuto più conversazioni telefoniche sulla crisi europea che per qualunque altra situazione di crisi in passato. Ho chiuso le puntate degli ultimi giorni sempre proponendovi una canzone, perché la crisi europea ormai ha un suo cotè popolare qua in America, oltre che politico e finanziario. Wall Street è preoccupata perché se la crisi dell'euro dovesse avvitarsi, come abbiamo visto il contagio è quasi immediato, se le borse dovessero di nuovo perdere, anche Wall Street, anche l'indice Dow Jones, il Nasdaq, lo Standard Poor ne soffriranno. Le coordinate di questa crisi le conosciamo, i possibili outcome in termini di unione bancaria, unione fiscale, unione politica, misure di stimolo a breve, che sono poi gli impegni sottoscritti dall'Europa a Los Cabos, al vertice del G20, li conosciamo, dovrebbero essere analizzati, discussi ed approvati fra domani e dopodomani. E io, insomma, sarei molto sorpreso se l'Europa, dopo aver preso formalmente degli impegni davanti al resto del mondo, facesse una marcia indietro decisa su quello che ha promesso di fare. Per cui, in attesa degli sviluppi concreti della realizzazione delle promesse, oggi vorrei parlarvi della crisi fra Turchia e Siria. C'è stato ieri a Bruxelles il vertice della NATO di cui vi parlai qualche giorno fa. The North Atlantic Council has just met. We discussed the shooting down of a Turkish aircraft by Syria. Il segretario della NATO Rasmussen, c'è stata la convocazione di una riunione della NATO sulla base di una richiesta turca in base all'articolo 4, secondo cui un attacco contro un paese membro del patto atlantico è un attacco contro tutti. C'è stata una discussione, la Turchia ha raccontato e spiegato la dinamica degli eventi, alla fine si è deciso di procedere con una condanna molto dura di quello che ha fatto la Siria. Non si è passati però, secondo quanto ci ha detto Rasmussen, a una considerazione dell'articolo 5, di quell'articolo cioè che prevede l'utilizzo della forza. Ve lo avevo anticipato, molto difficilmente in un contesto di questo genere si poteva immaginare un passaggio a un'autorizzazione di un intervento della forza NATO contro la Siria. Perché? Perché prima bisogna passare per le Nazioni Unite, infatti all'ONU si sta discutendo di possibili sanzioni, condanne, misure contro la Siria. La situazione è ingarbugliata perché la Turchia nel frattempo ha deciso di cambiare le regole di ingaggio ai suoi confini. La Siria protesta, dice che la Turchia consente il passaggio attraverso i suoi confini di terroristi. In effetti è vero che la Turchia consente ai ribelli di andare avanti e indietro. La Siria ha alzato un po' il tiro del suo schieramento militare lungo i confini. La Turchia ha detto: se ci fossero delle minacce siamo pronti ad intervenire con degli attacchi armati al confine. Dunque la situazione si sta scaldando, come vi ho detto in passato. Certamente uno sviluppo militare di questa situazione fra Siria e Turchia non aiuterebbe il mercato, non aiuterebbe a rassicurare quegli investitori che cercano un minimo di tranquillità in una situazione di totale fragilità psicologica. Abbiamo con noi i microfoni di America 24 Ed Luttwak, grande esperto militare, consulente dell'amministrazione. Buongiorno Ed. Buongiorno. Dunque Ed, come hai visto a Bruxelles, ci si è fermati un attimo, non articolo 5, e cioè un coordinamento per un possibile attacco, ma una condanna di quel che ha fatto la Siria. Secondo te quanto è calda e potenzialmente esplosiva dal punto di vista bellico la situazione siriana? Guarda, quando un aeroplano di combattimento, un Phantom di un paese è abbattuto, il paese dovrebbe fare qualcosa in merito, cioè agire. I turchi non vogliono agire perché, fra l'altro, il governo turco di Erdogan non vuole dare spazio ai militari, sta combattendo i militari sul fronte dell'islamismo e quindi non vuole dare spazio ai militari, i militari non rispondono. Invece si va a Bruxelles, dove accuratamente i turchi non hanno chiesto nessuna forma di intervento. Cioè, queste sono commedie per la loro opinione pubblica, per spiegare l'inspiegabile, cioè di non reagire al fatto che hanno abbattuto un aeroplano turco. Beh, però c'è anche una procedura, adesso si passa alle Nazioni Unite, sia la Francia che gli Stati Uniti... Sono procedure come quelle di chiamare Kofi Annan. Quando uno è sicurissimo che non vuole fare niente su una situazione, chiami Kofi Annan. Quando un paese come la Turchia è sicurissimo, il governo turco non vuole assolutamente fare niente, va alle Nazioni Unite. Quindi tu in qualche modo, Ed, ci stai rassicurando, sappiamo che i mercati sono nervosi, ci stai dicendo che diciamo delle due polveriere mediorientali, quella siriana e quella iraniana, beh, quella siriana non esploderà. Questa in fondo è una buona notizia. Non c'è l'esplosione, c'è invece l'incendio, nel senso che il governo di Assad continua nel suo lento declino, degrado, via il tentativo di rimanere al potere con la violenza che non può avere buon esito. Passiamo all'Iran. È fallito il negoziato di Mosca, gli ispettori non possono andare, il tempo sta scadendo, Bibi Netanyahu ha detto vi do un po' di tempo per la soluzione diplomatica, ma le sanzioni che dovrebbero partire adesso ai primi di luglio, dice, non saranno sufficienti. Cosa pensi? Beh, prima di tutto gli israeliani sono stati abbastanza soddisfatti con le sanzioni che stanno veramente restringendo gli iraniani molto, di non avere agito fino adesso. E anche gli israeliani, quando vogliono agire, agiscono. E c'era la conferenza adesso, sono appena venuto da Gerusalemme, la conferenza del Presidente, era molto chiaro che non hanno nessuna intenzione di agire nel breve, anche per il fatto che il programma iraniano è così caotico e mal gestito che continua a dare più tempo. Gli ultimi 7 anni hanno sempre detto l'anno prossimo ci sarà la bomba, l'anno prossimo ci sarà la bomba. Apparentemente il caos, duplicazione, corruzione del programma nucleare iraniano dà più tempo. E d'altra parte i russi hanno cooperato con gli israeliani perché non forniscono questi missili avanzati che gli iraniani avevano addirittura comprato e pagato. Adesso i russi non li forniscono, questo ancora da più tempo. Ecco, e questo è nel contesto della visita di Putin, Vladimir Putin, a Gerusalemme, in Israele. Che chiave di lettura dai a questa visita? Putin sta entrando a gamba tesa nello scacchiere, nel teatro medio orientale, per spiazzare Barack Obama? C'è un rapporto particolare. Gli israeliani hanno fatto pressioni molto forti sui russi. I russi non si piegano quando altri fanno pressioni, ma si sono piegati per gli israeliani, perché gli israeliani parlavano alla russa, cioè tu fornisci missili agli iraniani, noi forniamo missili ai georgiani. I russi hanno preferito di evitare questo. E Putin fa l'uomo duro, gli piace trattare con uomini duri, gente che non chiacchierano, che agiscono, che gli fanno proposte forti e semplici. E quindi lui praticamente va d'accordo con Netanyahu. E la sua visita in Israele, è il primo capo di Stato russo andato in Israele. Obama ancora in Israele non c'è stato. E questo ha un significato molto chiaro per tutti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com. Il sito che vi porta sulla sponda americana, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, resto in tema europeo, questa classifica fatta dalla National Public Radio, un'altra canzone dedicata, diciamo, indirettamente all'Europa, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, chiamatemi forse, e dunque hanno detto, dobbiamo dedicarla all'euro, forse euro? Wishing the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!